Come hai visto Pardo nella corsetta di prima? Com'è, in forma? È un po' appesantito. Però come appesantito? Visto bene, dai. Ma sto a dieta. Ma... sta a dieta, vabbè. Sta a dieta. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buongiorno direttore, complimenti per la trasmissione. Direttore, dove sta? Direttore sta di sopra ed è Roberto Napolitano. Noi siamo umili scribacchini, anzi parlantini di sport. Giovanni Capuano, buongiorno. Ciao, beh, umili, insomma, perché? Umili, no, perché umili. Zerbini, Zerbini. C'è la botta di La Madonna, come ti sento? Che è successo? Dove stai? È la tecnologia, eh. Sto sul divano e quindi c'è questo relax. Ma dove sei? Sei alla NASA. Sono in studio a Roma. Sei in studio a Roma, a casa sì, tua. Sì, sì, esatto. Ti ho lasciato ieri i potenti mezzi di Radio 24, è incredibile. Ti ho lasciato ieri a Castel Volturno, che è successo? Poi sei scappato. È successo che ci sono stati 3-4 minuti di panico perché Higuain si è fatto male e voi capite che insomma la vita del povero difensore del San Vito Positano e del tale Esposito, dici? Sentilo. Sicuramente ho da chiedere scusa e sono mortificato, solo questo ho da dire. Com'è andata la dinamica del... Sono scivolato con il piede d'appoggio e l'ho semplicemente toccato, ma qualsiasi cosa mi sarei dovuto fermare, ho sbagliato, sono mortificato, sono il primo tifoso del Napoli e spero che si riprenda e che magari faccia altri 30 gol il prima possibile. Ma gli hai detto qualcosa dopo? Solo scusa a quello di niente di più, questa è l'unica cosa che posso. Praticamente era pronto per la constatazione amichevole. Pronto a dare, a dare dei soldi. Ma secondo te, Pier, c'era concorso di colpa? Cosa... tamponamento? Esatto, no, cosa è successo? No, cioè, era uno scontro di gioco. La verità è che insomma, ci può essere l'elemento imponderabile, non era un intervento particolarmente cattivo, anzi secondo me lui in preda al panico ha avuto anche parole troppo negative, troppo dure nei confronti di se stesso. Vabbè, ma mettiti nei suoi panni, Pierluigi Pardo. Nei suoi panni, cioè, vengono a casa a prenderti, No, ma c'è, infatti sono d'accordo con te, però Higuain secondo me non si tocca. Non ha tutte queste colpe. Comunque sì, ci sono stati questi 5 minuti abbastanza irreali e poi irreali, lotta all'omofobia, al primo minuto sono Higuain che poteva diventare abbastanza curiosa. Che poi in realtà il responsabile primo sarebbe stato Sarri eventualmente in caso di infortunio di Higuain. Cosa lo fai giocare per fare? L'inizio di tutto, se lui non avesse dato del finocchio a Mancini, non avrebbe costretto De Laurentiis. Capuano, esattamente. No, però posso dire una cosa? Dobbiamo dire agli amici napoletani che nella partitella del giovedì che fanno tutte le squadre nelle settimane in cui non ci sono coppe, ci si può anche far male. Che l'avversario sia il Positano di Cecchi Paone con Pardo che fa la telecronaca o che la cosa avvenga nel proprio centro di allenamento, cioè non è successo veramente nulla ieri, ovvio. No, è surreale quella roba lì che ha dovuto fare il difensore. In questo momento Higuain è l'uomo che sposta i destini di una, sì, ma gli fa male anche un compagno intero, in allenamento, sì. Gli può far male uno della primavera, certo. Guardate che ieri mi sono andato a prendere il quale verrebbe crocifisso in sala mensa. Ma sì, ma meno però, voglio dire, tu pensa all'imbarazzo di una partita organizzata essenzialmente su iniziativa di Cecchi Paone, iniziativa lodevole, secondo me comunque positiva, alla quale il Napoli aderisce e pensa se fosse successo qualcosa di grave. Comunque, Cecchi Paone è noto tifoso juventino, no? No, anzi, non lo so, penso che non tifi nulla, però voglio dirti, non... sinceramente no, è stato veramente un momento surreale, però poi insomma tutto si è risolto ed è stata nel senso complessivo una bella giornata secondo me, perché comunque insomma il Napoli ha non definitivamente chiuso, perché la polemica era già chiusa, secondo me ha colto l'occasione per fare un ulteriore passo avanti e quindi bravi. Pardo si è entrato a gamba tesa su Higuain, mi scrive un ascoltatore via WhatsApp. 800240024 invece è il numero verde per essere come ogni giorno convocati, abbiamo un sacco di cose da dirvi. C'è chi ricorda l'episodio Esposito, poveretto, ma Higuain, che gli possono far male solo gli scogli di Capri. Gli scogli di Capri hanno volevano essere denunciati da De Laurentiis. Esposito, per fortuna no, non è successo nulla. A proposito di De Laurentiis, ha parlato ieri della lotta a scudetto. Beh, la Juve è una grandissima squadra, oltre che una grandissima società, che ha la fortuna di avere dalla sua una continuità storica lunghissima. Il giorno che io dovessi avere una vita molto lunga e il Napoli dovesse, attraverso l'attuale patrono e i miei figli, una continuità di qualche decennio, e probabilmente allora le cose, vedremo anche il calcio cambiare a livello mondiale, vedremo anche fare un discorso completamente diverso. Ho visto cose che voi umani non potete neanche praticamente immaginare. Praticamente si candida a essere la prossima famiglia Navi Agnelli. In fiamme. Era questo il senso del discorso di De Laurentiis. Ieri il presidente ha parlato, questo qui era l'intervento durante l'intervallo della partita, ed era un fiume in piena su mille argomenti, anche secondo me abbastanza arrabbiato per una certa presunzione di colpevolezza che esiste in questo paese, giusto o sbagliato che sia. Sulla storia del fuorigioco, dell'operazione del fuorigioco. Sì, del fuorigioco, secondo me anche sull'inchiesta prima, quella sui diritti televisivi, ma credo facesse un ragionamento più complessivo e più generale, no? Che è quello ovviamente, poi insomma lo deve far lui, non lo devo fare io, però cerco di riportare appunto l'idea che ci debba essere un'attenzione ai ruoli e un rispetto per tutti, anche quelli che vengono in qualche modo coinvolti in delle vicende. Qui praticamente poi c'è tutto il calcio, le cifre sono anche abbastanza risibili, questo è il suo punto di vista. Poi è tornato, è intervenuto nuovamente durante il nostro TG sportivo e insomma mi sembrava particolarmente ciarliero, particolarmente contento, particolarmente in forma. Ha detto che lascerà a Giuntoli il compito, è soltanto aggiunto il compito di scegliere l'ultimo rinforzo. Insomma, mi sembra un presidente che, come si dice in gergo, sta sul pezzo. E tu ci credi? Ma io ci credo. Guarda che De Laurentiis non muove foglia senza che De Laurentiis non voglia, Pierluigi. Dal punto di vista dell'organizzazione societaria sicuramente sì. Dal punto di vista del marketing, secondo me anche dal punto di vista della comunicazione, è chiaro che per esempio la partita di ieri è nata, ma secondo me è un merito di De Laurentiis, proprio per un rapporto fra De Laurentiis e Cecchi Paone, di amicizia, di collaborazione, di simpatia, quindi sicuramente è un presidente molto presente, però secondo me nell'area tecnica non tanto. Cioè, a me sembra uno che non è che si metta a fare la formazione, non mi risulta che lo abbia mai fatto né con Mazzarri, a dire la verità, a noi, a questi microfoni, come piace dire a te, sì. Ha dichiarato che... No, a te. Ha dichiarato a questo che, microfono, sì. A questo microfono, esattamente, ha dichiarato che lo schema attuale del Napoli lo ha disegnato lui, lo ha suggerito lui, ha chiamato Giunto e gli ha detto: ascolta, vai da quel signore con gli occhiali e digli che il trequartista De Luca fa così, sai perché? Perché non vuole che ricordiamo che De Laurentiis sta facendo un po' il furbo, perché un mese fa aveva detto che siccome il film andava benissimo, quello di Natale avrebbe comprato un campione. E a me non risulta che Grassi, poverino, poi si è fatto male prima Regini Menisco. E il terzo colpo che dovrà fare Giuntoli, quindi la colpa eventualmente sarà di Giuntoli, possa ricadere almeno oggi nell'immediato alla voce campione. Però De Luca questo non vuole che lo diciamo, quindi noi non l'abbiamo detto e andiamo in traffico. Fa dei segni preoccupanti, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Sì. pensiamo queste partite, dai, e se no andiamo sempre avanti. Il mercato, poi da gennaio cominciamo a pensare alla stagione dopo, bisogna pensare a questa stagione, bisogna pensare ad andare in Europa, quindi il mercato arriverà, vedremo cosa succederà, ma insomma questo è un organico che è stato costruito per andare in Europa, e in Europa deve andarci. Io credo che bisogna essere onesti e molto diretti con tutti i nostri tifosi. Di conseguenza penso che l'obiettivo del Milan di quest'anno possa essere l'Europa League, e crediamo di poter conseguire questo risultato, sapendo però che dall'anno prossimo l'obiettivo tornerà a essere la Champions. Parole in rosso nero in una salsa meravigliosa, Red Hot Chili Peppers. Chissà cosa pensa papà Berlusconi, non dei Red Hot Chili Peppers. Non dei Red Hot Chili Peppers. Chissà cosa pensa Gagliani. Allora, per la prima volta, attenzione, un momento storico, Pardo Capuano e Franco Ordine che è con noi. Ciao Franco. Eccoci qua. Allora, correggimi se sbaglio, per la prima volta c'è un Berlusconi che non parla di Scudetto Champions League come obiettivo, ma di un obiettivo massimo, Europa League. Inutile illudere i tifosi, e lo dice Barbarella. Avendo ben presente un numero, dice inutile prendere in giro i tifosi. Inutile prendere in giro i tifosi, allora, inutile raccontargli favole. Questa squadra ha mediamente deluso. Siamo da Europa League. È la prima volta che succede, No, non è che dice siamo da Europa League. Dice in questo momento è inutile pensare di puntare ad altri traguardi che non sia quello dell'Europa League, perché è l'unico concreto alla portata, sì. Che è poi lo stesso ragionamento che fa Gagliani quando dice è inutile che parliamo di mercato, dobbiamo puntare all'Europa, che è poi il ragionamento. Io devo dire che sono soddisfatto di questo, perché in questo momento chi dovesse parlare di Champions o addirittura di Scudetto in sostanza venderebbe solo e soltanto delle illusioni. Certamente, delle certamente. Come altre volte sono state vendute, no? Ciccio, sì, correggimi se sbaglio. No, sono state vendute, diciamo, rispetto alle aspettative. Sì. Poi dopo è evidente che a un certo punto della stagione comincia a fare i conti con i numeri, con la classifica e con la realtà tecnica della tua squadra e del tuo organico. Però Franco, scusa, dire questa cosa da parte non di un tifoso qualsiasi, ma dell'amministratore delegato con delega commerciale e tra l'altro rappresentante della proprietà il 28 gennaio, perché questa è la versione buonista, poi c'è la lettura maligna. A me sembra anche una critica nemmeno troppo velata alla parte sportiva del Milan per come sta andando questa stagione. Ma ha parlato anche di Gagliani, ha detto io e Gagliani immaginiamo, ma quella è fanta politica, questa è la carne viva del rendimento della squadra, degli obiettivi. Io sono anche molto contento che finalmente si sia messo da parte l'ipocrisia e si sia detto la verità così come sta. Esatto. E cioè, quando lei dice io e Gagliani abbiamo due visioni completamente diverse rispetto alla conduzione e alla gestione del Milan, finalmente, benedetto Iddio, ci dicono, raccontano la verità che noi abbiamo raccontato sui giornali. Certo. E che è la dimostrazione, purtroppo, del fatto che immaginare che una società possa essere guidata con due volanti è purtroppo anche questa una pia illusione. Scelta fatta necessariamente dal presidente Berlusconi, che ha dovuto mediare tra gli affetti familiari da una parte e la fedeltà assoluta e la sintonia assoluta, oltre che l'amicizia quarantennale con Gagliani dall'altra. Pardo, cosa ne pensi? Penso che stiamo parlando di comunicazione, penso che Barbara abbia ragione. Non è un discorso molto diverso da quello che facevano i dirigenti bianconeri 3 mesi fa, quando dicevano che l'obiettivo massimo era la Champions League, e poi sta andando in maniera completamente diversa. Non so se col Milan andrà in maniera diversa, mi sembra che comunque la situazione più verosimile, l'obiettivo più verosimile sia certamente l'Europa League, e sul passato sono stati commessi, secondo me, degli errori storici in questi anni, i rimpianti sono tanti, il primo fra tutti secondo me rimane quello di Tevez, poi certamente Pirlo, ma su Pirlo mi ricordo benissimo che non c'erano i caroselli in piazza di protesta, quindi sì, evidentemente sembrava un giocatore anche perché era un anno in cui Milan aveva vinto lo scudetto, no? Sì, esatto, è stata brava la Juve e Conte, sono stati bravi a rigenerarlo, e in tempi recenti sicuramente Saponara può aprire qualche rimpianto, ma io ti ho detto, secondo me il Milan quest'anno ha fatto una buona campagna acquisti, ha fatto una campagna acquisti di prospettiva, a costo di essere impopolare, lo ribadisco, poi i risultati in campo non sono straordinari, perché secondo me Mihajlovic non ha fatto fin qui una stagione clamorosa, e perché comunque ci sono squadre migliori. Sì, ma vedi, Piero, io sono d'accordo con te. Io sono d'accordo con te. Ne ho parlato anche ieri con Filippo Galli. Questa è la vera inversione di tendenza. È un Milan che anche qui per la prima volta, ed è una novità dopo anni, non cerca più le figurine. Non cerca più le figurine, ma cerca giocatori di prospettiva. Però c'è anche un altro numero: 91,3 milioni di euro, peggior passivo della storia rossonera. Sì, speso tanto. Beh, il passivo poi sai che dipende sempre dalla somma algebrica fra attività e passività, appunto, quindi il punto è anche che secondo me il Milan nelle ultime stagioni aveva poco da valorizzare sul mercato e quindi aveva poco da poter incassare, ha speso tanto, probabilmente in qualche caso ha anche speso male, o forse bisognerà dare tempo. È chiaro che l'investimento per Romagnoli è un grande investimento, ma gli ci vorrà ancora un po' di tempo. Poi comunque quest'anno si è tornati a spendere, l'abbiamo detto mille volte, sono tornati a circolare i soldi, e quindi sì, è un passivo pesante. Non dico che i tifosi del Milan debbano essere felici, per carità, il Milan è abituato a ben altre cose, però ma secondo me c'è un percorso. Loro hanno sempre chiesto chiarezza, Giovanni. I tifosi del Milan sono da anni, è da anni che chiedono chiarezza. La società ci dica esattamente, senza prenderci per il culo, dove vuole arrivare, quali sono i piani, perché noi siamo disposti, dopo guarda, tutto quello che abbiamo vinto. Franco conosce meglio l'ambiente del Milan. Io non credo che un tifoso del Milan il 28 gennaio possa rassegnarsi al discorso che ha fatto ieri Barbara Berlusconi, quando magari vincendo domenica sera al derby il Milan si troverebbe a 5 punti dall'Inter, che il terzo posto ce l'avrà come obiettivo piantato in testa fino al 15 maggio. Secondo me è un'uscita un po' fuori tempo, e alla Juve, quando Marotta parlava del terzo posto come obiettivo massimo, Allegri anche, se vi ricordate, la proprietà uscì dicendo cose diverse, uscì dicendo no, qui alla Juve si gioca sempre comunque per vincere. Scusate, posso chiedere il dato dei 91,3? Sì, certo, Franco. A che cosa milioni si riferisce? È bilancio al 31 dicembre 2014. Benissimo. Allora bisogna raccontare. Che va raccontato nel dettaglio, perché va raccontato, perché non è mica una differenza di poco. Allora, quel bilancio lì pesa per 91,3 solo e soltanto perché in quella circostanza, poiché eravamo alla vigilia della trattativa, dell'inizio della trattativa con Mr. B, il bilancio del Milan non era più stato, tra virgolette, assorbito da Fininvest, e quindi si era dovuto fare carico di tutta una serie di altre circa 40 milioni di euro di altre incombenze che non riguardavano espressamente la società. Tra questi provvedimenti c'era anche il fatto che tutto lo stipendio di Seedorf, anziché essere spalmato lungo l'anno, era stato tutto accantonato e messo da parte. Sì, ci avevano scaricato dentro un po' di roba. Era un passivo da una quarantina di milioni diventato un passivo da 91. Esatto, 90. Esatto. Nel quale pesa anche, perché poi prima o poi ci sarà qualcuno che racconterà anche non più le favole di Cappuccetto Rosso, nel quale pesa anche, signori miei, il passivo di Casa Milan, che non è mica una roba di poco conto. Lì ci sono 20 milioni per il momento, Sì. Che ballano. Ah, ecco. No, allora, ma Franco, però sono... per chiudere il circolo, ti chiedo ancora questo. Un'altra frase di Lady B è stata quella relativa a Mr. B, che ha detto certo. In ogni trattativa ci può essere una fase di stallo. L'importante è venirne fuori in un modo o nell'altro. Ma questo devo dire. Questa... Non mi sembrano frasi di particolare ottimismo. No, non è, ma è la stessa, tra virgolette, espressione che da qualche giorno a questa parte io mi sono fatto carico di scriverla nei giorni scorsi sul giornale. Viene ripetuta dalle fonti ufficiali di Fininvest. Perché quando si scrive si dice ah forse Mr. B vuole cambiare la proposta eccetera, la risposta secca io ve la traduco alla mia maniera, non sì. È proprio così, ma io insomma ve la traduco un po' alla foggiana. Mr. B prima porta i soldi, porta un assegno, porta una carta scritta e poi discutiamo di tutte le cose di cui vuoi ridiscutere. Non discutiamo, cioè è come quello che vuole comprare il palazzo, poi comincia a dire però io qui cambierei la facciata, qui cambierei il portone, qui cambierei il box. Prima di cambiare tutto questo, Ciccio, porta il grano e poi discutiamo. Dare cioè, soldi, vedere cammello, insomma. Cammello, però sarebbe bello anche bello anche capire se Berlusconi nel frattempo ha preso una linea definitiva sulla questione Milan, 48-51%. Perché risposta, tante cose sono successe in questo anno. Ascolta, la risposta definitiva è una sola. Si discute solo e soltanto su due cifre. 48 uguale 480. Ok, perfetto. Saluti. Ciao Franco Ordine. Ciao. Andiamo ciao, in borsa, torniamo subito con gli ascoltatori. Anche 800240024, numero verde. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante. Laser, fumogeni e bomboni. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Viene da ridere anche a loro, mi metto davanti. Martins, sei contento di questa opportunità dell'Inter? Puoi dire qualcosa o no? Non vuoi dire nulla sul fatto del trasferimento, ci puoi dire qualcosa? Un saluto ai tifosi dell'Inter e anche della Sampdoria. Ma non dire nulla. Non funziona il microfono. Ma non possono parlare. Non può parlare. Andiamo Soriano, se magari... Soriano, eccolo Soriano, dai. Soriano, ci vuoi dire qualcosa? Come mai sei qua a Milano stasera? Ma noi veniamo spesso qua a mangiare. Ti dispiace che vada via Eder dalla Sampdoria? Ma questo non lo so ancora se va via. Comunque se siamo a Milano è perché veniamo spesso a mangiare. E comunque vogliamo chiarire, tu resti alla Sampdoria perché qualcuno cominciava a pensare che ci potesse essere un'ipotesi Inter. Lo possiamo dire che resti alla Sampdoria, sì? Sì o no? Lo prendiamo come un sì o no? Il resto? Sì, no, resti alla Sampdoria a gennaio, no? Certo, ecco, questo era importante. Va bene, ok, grazie, scusateci l'intrusione e l'irruzione. Duro mestiere quel cronista. L'entusiasmo di Soriano nell'annunciare che resta la Sampdoria. Sì, ma poi non sì, l'unica cosa che ho capito è che vengono a Milano a mangiare. L'unica cosa che è certa è questa, Bardo. Ieri su Mediaset Premium c'è Carini che gli ha rincorsi col microfono. Dicevi? Sì, beh, l'altra sera è atterrato a Buonceca in un ristorante dove io ero a cena, essendo un fancazzista, e ha fatto un giro, insomma, è la vita dell'inviato sul mercato, c'è di peggio, c'è di peggio, per carità, ci sono lavori molto peggiori, però insomma, ci sono questi momenti un po' imbarazzanti che stai lì e chiaramente stai rompendo i coglioni, cioè è ovvio, no? Te ne rendi conto tu per primo, però stai facendo pienamente il tuo lavoro, quindi sì, bravo. Se ti posso raccontare, Pier, c'è chi ieri sera in quel ristorante, un collega di Telelombardia, lo diciamo, si è finto tifoso per fare un selfie con Soriano ed Eder per testimoniare che erano... che erano a Milano insieme ieri sera, fantastico. Contemporaneamente ieri sera si è andato lì e ha detto io sono un tifoso, facciamo un selfie, e queste loro l'hanno fatto. mi ricorda anche volentieri. Filippo Maria Ricci durante il periodo diciamo di Cassano fuori rosa al Real Madrid, c'era una rotonda, poi un giorno ce lo facciamo raccontare da lui, c'era una rotonda fuori da Valdebebas dove insomma di solito i giocatori sfrecciavano, però se c'era qualche tifoso ovviamente si fermavano, e lui si è finto tifoso con la maglietta di Cassano e poi Cassano l'ha riconosciuto e quindi l'ha spalculato in 30 secondi Esatto, è una cosa abbastanza divertente. La prossima volta che sentiamo Filippo ce lo facciamo raccontare. Certamente, nei dettagli. Nei dettagli. Però piuttosto, prima di Roberto e Manuel, voglio subito parlare con gli ascoltatori. Piuttosto, Eder dell'Inter ha fatto le visite mediche, oggi firmerà il contratto, dubbi mi pare non ce ne siano, e domenica giocherà nel derby. Cambia qualcosa nell'Inter. Tra l'altro, Soriano, poi parliamo anche del fronte Samp, perché a Montella, che chissà com'è contento, hanno smontato la squadra via, sì, via Eder, via Regini, via Zukanovic, e vediamo Soriano. Cosa cambia per l'Inter? Ma io credo che, Pier, scusa, poi ti lascio, credo che la scommessa di Mancini sia questa: partendo dal derby l'Inter ha 17 partite di campionato, siccome ha cominciato a buttare via dei punti nelle partite che non si può permettere di non vincere, quindi Atalanta, Carpi, Sassuolo, quelle partite lì, e lo ha fatto soffrendo ma anche sbagliando dei gol fatti, io credo che se Eder gli facesse in questo girone di ritorno 7-8 gol, io non dico doppia cifra, probabilmente l'Inter sarebbe un po' più vicina al terzo posto. Giocando con Icardi? Giocando credo più con Icardi che con Jovetic. A me Eder sembra, diciamo, come profilo simile a Palacio, per intenderci. Chiaro. Eder secondo me chiama un atteggiamento tattico di questo tipo. Anche io vedo bene Eder e Icardi insieme. Quindi bocciato Jovetic. Beh, mi sembra che aumenti la concorrenza per un ruolo da seconda punta, ed Eder non è una punta centrale, quindi per una squadra che deve vincere, soprattutto in casa, deve segnare di più. Io credo che Icardi ed Eder diventi un tandem potenzialmente molto molto importante, e quindi possa ridurre gli spazi di manovra dei vari Jovetic, Ljajic, in quel tipo di zona. Sicuramente Mancini sta spendendo tanto, è un acquisto che può cambiare certamente le cose. Insomma, Eder è stato uno dei giocatori migliori del campionato nella prima metà della stagione, arriva nella piena maturità fisica, tecnica e comportamentale, molto motivato perché vuole andare agli europei, sulla Samp ce n'è più di uno. Allora, mentre il Milan rifiuta, tra poco parliamo diffusamente di mercato, però mentre il Milan rifiuta 16 milioni di euro, che sono tanti, sai che io non sono sicuro di questi tempi, per Niang dal Leicester di Ranieri. Ma non guarda, sicuro, nel senso che in queste ultime due ore si è anche detto che il Milan è tornato su Perotti. Su Perotti, sì. Ora, se tu metti insieme prime punte, seconde punte, finti esterni del Milan, siamo a 8. Ora, se Galliani pensa di tenere calda la pista Perotti, vuol dire che qualcuno di importante deve uscire per trovare quei soldi lì. Sì. Beh, intanto è uscito Cerci, e questa è una, cioè, la novità sta nelle parole di Cerci, perché qualche anno fa tutto il mondo voleva andare al Milan, non c'era giocatore al mondo che non volesse andare al Milan. Adesso il Milan è diventato, a sentire Cerci, una scelta sbagliata. Del Milan non voglio parlare. Non voglio parlare del Milan. Sì. Probabilmente ho sbagliato anche la scelta di poi andare al Milan, perché magari se avessi avuto più tempo, se sarei rimasto, ecco, all'Atletico, ora le cose magari sarebbero diverse, perché magari mi ambientavo un po' meglio, cercavo di stare lì, di soffrire un po' di più, magari le cose sarebbero andate meglio secondo me. Capito, ragazzi? Manuel, provincia di Modena, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, bene. Benissimo, allora lascio. Oggi un trionfo per i collegamenti, un trionfo totale. Perfetto. Dica. No, io sono un sampdoriano molto preoccupato. Mm-hmm. Sono un sampdoriano anomalo in quanto sono di Maranello, e volevo chiedere a Pier, in quanto spero simpatizzante sampdoriano, è amico di Cassano, è amico di Ferrero, se sta squadra qua c'è o ci fa. E io ho paura. C'è o ci fa. No, lo capisco. E qualche paura secondo me ci può stare, perché non, insomma, l'ultima volta che la Samp retrocessa è stata in quella maledetta per la Samp stagione 2010-2011, quando se ne andò Cassano per i ben noti motivi, e poi a gennaio venne preso l'azzardo di far partire anche Pazzini, sì, che andò all'Inter. E, insomma, la classifica non è ancora del tutto incoraggiante e del tutto rassicurante. Io penso che la Samp non abbia grandi rischi, e quindi da questo punto di vista probabilmente, se alla fine non rischierà, essendo, come dicevamo l'altro giorno, un campionato che rischia di diventare purtroppo per tante squadre un campionato abbastanza inutile, nel senso che non ci sono rischi di retrocessione, nemmeno sogni di gloria, alla fine ci può anche stare sinceramente di monetizzare la cessione di Eder in questo momento. di fare scelte di tipo un po' diverso, però sicuramente è una squadra adesso che potrebbe essere messa in difficoltà, perché dietro è vero che arriva un giocatore importante come Ranocchia, che credo possa dare garanzie, però i problemi secondo me rimarranno, e togliere uno come Der ti leva tanto, insomma. Sì, poi, questo è indubbio. Ovviamente partiamo dal presupposto che Soriano rimanga, sappiamo che su Soriano c'è anche una clausola, quindi dei due quello anche sui quali puoi far meno, no? Nel senso, se arriva un'offerta di un certo tipo, anche volendolo tenere, fai più fatica a farlo, proprio perché c'è una clausola con un prezzo ben preciso. Sandro Sabatini, buongiorno. Oh, Sandro Sabatini, conduttore di Calcio Mercato Premium, e sarà conduttore della Champions, del programma Champions. Sì, sì. E sto ascoltando Pierluigi Pardo, che mi sembra maturo anche per condurre Maggioranza Assoluta, perché è noto una profondità nella sua analisi, sì, esatto, che era sconosciuta. Esatto. Sì, ma si sta allenando domino, perché dunque tiki taka al signor Sabatini, al signor Sandro. Conducila una cosa, non essere timido, Sandro, dai. Senti da com'è? Che pulpito. No, no, ma Pardo si sta allenando per quello, per un grande salto di qualità in altri agoni. Dai, sì, noi parliamo sta allenando spesso, una no, grande tecnica. Ci rivolgiamo spesso ai tifosi, no, delle squadre con più bacino, quindi però dobbiamo dare un pensiero anche ai tifosi della Sampdoria, credo, in questo momento, perché stanno vedendo i pezzi uno dopo l'altro che vengono dati via, e capisco anche che, insomma, ci sia un po' di preoccupazione, di disillusione, di diffidenza e di legittima frustrazione dopo questo calciomercato per tutti i tifosi della Sampdoria. Sì, è evidente. Questo è indubbio. Sì, il concetto in generale riguarda, secondo me, tutte le squadre di fascia media. Poi chiaramente in questa campagna acquisti la Samp è quella che si sta sacrificando di più, però l'abbiamo detto mille volte, questo è il lato, the other side of the moon del calcio moderno, cioè abbiamo una serie di realtà che fanno veramente fatica a poter spiccare il volo, e quindi da un certo punto di vista di gestione societaria è evidente che la Samp in questo momento faccia anche bene a monetizzare Zucanovic, Eder, Regini se partirà, però ecco, dal punto di vista del tifoso penso che rimanga proprio la sensazione, la rassegnazione che oltre un certo punto non riesci comunque ad andare, anche se poi è arrivato Dodò, è arrivato Ranocchia, è arrivato Alvarez, cioè sono arrivati tre giocatori che se venissero recuperati si parla di Quagliarella, insomma si parla di Quagliarella, per l'appunto il Torino chiederebbe 4 milioni di euro, la Sampdoria ci sta pensando, corretto? Sì, è corretto, ma credo che sia una valutazione abbastanza alta, forse elevata, troppo. Cairo, si sa, è uno che è molto bravo a commerciare i suoi calciatori, mi sembra abbastanza troppo elevata forse come valutazione per Quagliarella. Una cosa è sicura, non arricchirebbe il parco delle sue ex squadre Quagliarella, perché alla Samp c'è già stato, e quindi sarebbe un ritorno per... Penso anche che nella Sampdoria abbia legato Quagliarella il periodo dei gol più spettacolari. Sì, certo, e quindi ce ne ricordiamo quasi uno per avrebbe uno. Avrebbe il problema se esultare o meno. No, non esulta. Al quadrato. Non può esultare perché ha giocato dappertutto. No, io vorrei fare a Sandro Sabatini una domanda tecnica prima di lasciarlo a quelle facete di Capuano. C'è un ascoltatore, Igor da Pescia, che mi vorrebbe chiederti com'era la bistecca di Benito ad Orentano sul mercato. Buonissima, è la miglior bistecca della Toscana senza fuori discussione, ma secondo me è la miglior bistecca d'Italia, lo consiglio a tutti, guarda, e anche a Pardo, che è un che ovviamente conosce. Beh, no, ma poi... Sì. Poi Pardo è caduto, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Sandro Sabatini con noi, credo che Pierluigi sia pure tornato. Ero caduto? Eri caduto, sì. Sono ritornato? Adesso vediamo, sento ma preoccupanti. Hai lavori in casa? Sento preoccupanti rumori di fondo. Sì, sono a casa dei miei genitori, che in questo momento più che una casa sembra una fonderia, nel senso non so cosa stiano facendo, sono anche preoccupato, rumori inquietanti. Questa però è la macchinetta del caffè, ve lo offro metaforicamente a tutti. Ah beh, grazie. A tutti gli italiani. Sei molto gentile. Beh, no. Ieri in Napoli, ieri è stato un bel momento di televisione, verità, perché in Napoli San Vito Positano abbiamo visto proprio la tazzeria e le caffè con il massaggiatore storico Tommaso del Napoli, che portava, magazziniere storico del Napoli, che portava il caffè a tutti, Mertens che lo vedeva in panchina, cioè chi ha visto la partita lo sa, una scena molto napoletana, devo dire la verità, veramente molto, molto napoletana. Giovanni Capuano invece vuole sapere da Sandro Sabatini qualcos'altro di più tecnico. No, io volevo sapere se Niang prima non io volevo sapere se si fida di questa cosa che il Milan si sia fermato, o se il fatto che stia chiedendo informazioni per l'ennesima volta su Perotti e nello stesso tempo sia comunque viva l'offerta per Niang non faccia fare 2+2 o meglio 4+4, perché il Milan ne ha 8 in questo momento di punte, mezze punte ed esterni offensivi, e quindi se comunque ritiene di pensare a Perotti, evidentemente crede di poter vendere qualcuno, ma venderlo bene. Guarda, su Niang a me risulta una cosa abbastanza diversa rispetto a quella che stiamo leggendo, che viene diffusa, perché tutti dicono, o meglio il Milan fa trapelare che non ha intenzione di vendere Niang. A me invece risulta che sia Niang abbastanza restio ad accettare il trasferimento all'Leicester. Se arrivano tutti quei soldi, si parla di insomma, sui 15, 17, 18 milioni, il Milan lo fa un fiocco sulla testa di Niang e glielo dà all'Leicester. È chiaro che poi il giocatore ambisce a uno stipendio all'altezza della sua valutazione, ecco perché c'è ancora qualche intoppo in questo trasferimento. Perotti sì, è una soluzione sicuramente, è chiaro che comunque probabilmente il Milan deve scegliere al Genoa. Mi sembrerebbe strano se non concordata una concorrenza con la Roma su Perotti, ricalcherebbe un po' la concorrenza di quest'estate su Bertolacci, ma mi sembrerebbe veramente strano, ecco, la concorrenza Roma-Milan su Perotti, considerato anche che il rapporto è sembrato molto amichevole per la sistemazione di El Shaarawy. No, assolutamente, non voglio dire scorretta perché nel mercato non c'è nessuna scorrettezza, però diciamo che alla luce dei rapporti che ci sono in questo momento fra Roma, Milan e Genoa, cioè, o la Roma ha deciso di cambiare, diciamo che strada. O la Roma chiude per Perotti, la Roma ha in mano il giocatore, se decide di non chiudere potrebbe intervenire il Milan. Mi pare di capire che così. Il Milan debba anche provare a dare un po' di continuità, nel senso che poi non sai mai se è una conseguenza o una causa dei cattivi risultati, cioè non sai se è questo qualcosa che provoca i cattivi risultati o semplicemente arrivano i cattivi risultati per cui tu cambi. Però non adesso far ripartire Niang per andare a prendere Perotti, cioè mi sembra l'ennesimo tentativo di andare a cercare di stravolgere tutto. Niang mi sembra un giocatore che ha dimostrato comunque di avere prospettiva. È chiaro che San Siro non è facile, è chiaro che giocare col Milan è diverso che giocare col Genoa, con tutto rispetto, perché aumentano in maniera clamorosa le pressioni, specie nei momenti difficili come questo. Però insomma, io a Niang darei fiducia, darei, e poi sì, anche però per una valutazione di quel tipo, insomma, sai Pier, uno ci pensa, perché non sono pochi soldi, eh? Se, come diceva Sandro, se arrivano a 18, vale. No, ma secondo me con i prezzi di oggi li vale, nel senso che neanche giovanissimo, a prospettiva, insomma, 16 milioni ci stanno. Se Bertolacci ne vale 20 e Romagnoli ne vale 25 più bonus, sto parlando di due ottimi giocatori, cioè l'abbiamo detto mille volte, con i nuovi contratti, con i nuovi soldi che si sono comunque riversati sul calcio italiano da quest'estate, c'è stato un effetto inflazione complessivo, per non parlare di quello che è successo in Inghilterra dove hanno un contratto da sogno. Per il Leicester 16 milioni sono proprio veramente bruscolini, peanuts. Noccioline, sì, però anche secondo me 16 milioni è una valutazione buona, ma non è una valutazione folle. È una valutazione eccezionale, tu dici. Allora, Matteo a provincia di Treviso, anzi Leo da Genova, che era prenotato da prima, poi chiedo a lor signori, Sandro Sabatini, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano, di mettermi una cornice intorno al derby di domenica sera. Leo, buongiorno. Ciao ragazzi. Ciao Giovanni, Pierluigi e Carlo. Ciao a tutti noi, anche da Sandro Sabatini. Dimmi. Grazie. Ragazzi, qua a Genova piove forte. Piove forte. Metaforicamente ragazzi, o metaforicamente, immagino? No, come tempo, come cielo, come piove, ma anche piove su di noi. Piove su di noi. Genova dove? Geolocalizziamo. Stadio Marassi. A Stadio Marassi, piove forte. Sì, sì. Genova dove? Stadio Marassi, Pierluigi. Marassi, sono qua, io ci abito vicino. Ragazzi, sono incazzato nero, ma Ferrero, ragazzi, la cosa peggiore che può fare una persona è perdere la stima in un secondo. Questo qua si mette in testa, era un grande, io poi vado anche spesso in tribuna, ride, scherza, c'ha con la moglie, che è una bella patatina con la moglie, sono sinceri, sempre così, un bel vedere, insomma. È un bel vedere la moglie, dai. Poi quando esulta, vedi con la bocca aperta, ragazzi, è stupendo. però ha fatto un esame, cioè non è un film hard, è una partita della Samp, ecco, sì, sì, sì, sì, eh. Poi Leo, però adesso non ci crede, è diventata un po' più racchia perfino lei dopo che è stato venduto. Sì, sì, la parola. Vabbè, ragazzi, comunque Alessandro sta facendo quello che ha fatto l'anno scorso. Ma poi torniamo a parlare della SAP. Intanto vi chiedo di mettermi, come detto, una cornice intorno al derby di domenica, perché secondo me sarà la partita della grande paura, che di solito fa 90 la paura, mi pare. Sì, la paura fa 90 secondo te, fa pareggio. Invece secondo me nessuna delle due può rifugiarsi in un comodo pareggio da paura. Cioè tu immaginati anche l'Inter che dovesse domenica sera trovarsi davvero per la prima volta fuori dai primi tre posti. Sì. Sei punti nelle ultime sei partite e comunque alla vigilia di un calendario che dopo le due veronesi, che in sequenza a quel punto diventa davvero complesso. Secondo me l'Inter si è giocata dei bonus per poter pensare a questo derby dicendo ho paura, gioco a non prenderle. Sandro. Ma sì, per l'Inter è abbastanza drammatico sportivamente, anche per Mancini direi, perché comunque dalla sciagurata delle sciagurate iniziative di Felipe Melo contro la Lazio, che poi hanno determinato la sconfitta prenatalizia, poi sono arrivate le cattive notizie per l'Inter praticamente a cascata, e anche i cattivi risultati per l'Inter. Quindi anche se l'Inter è terzo in classifica e il Milan è più dietro, c'è cioè il paradosso di un derby che è molto più di tensione per l'Inter, è evidente. Poi volevo soltanto fare una battuta su Ferrero, dopo aver sentito questa telefonata da 50 sfumature di blu cerchiato del nostro amico di Genova. Ferrero, e qui do la colpa anche al nostro amico Pierluigi Pardo, insomma, non è che i tifosi lo devono giudicare perché è simpatico, fa le battute, canta, ride, scherza, invita le conduttrici a Ponza o a Ostia, dov'è che li portava, la Calcagno e la D'Amico. Piano piano sta venendo fuori un personaggio col moschito. Ostia Lido, sì, sì. Sta venendo il personaggio. Ripeto, la Samp dell'indimenticato Garrone, per il quale provo ovviamente una simpatia e una stima senza limiti, quell'anno lì, dopo chiaramente la colpa di Cassano che aveva litigato, era andato via, ha venduto Pazzini e sappiamo come è andato a finire, cioè gli errori di valutazione si fanno. Secondo me, sono d'accordo con Sandro, certamente non è da questi particolari che si giudica un presidente, non dalla simpatia o dalla quantità di battute, ma da quello che fa. E certamente il tempo di misurazione della qualità di un presidente non può essere un anno, non possono essere pochi mesi, ma deve essere un tempo lungo. Detto questo, sicuramente sta monetizzando e si sta prendendo un rischio. Per cui io credo che è sparito. Vabbè, comunque oggi ce lo siamo goduti in perfetto stereo per un'ora. Adesso saluto Sandro Sabatini, grazie Sandro, alla prossima. Grazie davvero. Ciao, un abbraccio grazie a tutti voi. Ciao, grazie Sandro Sabatini da Mediaset. Rimaniamo io e Giovanni Capuano, abbiamo il GR e poi torniamo per continuare a parlare della Sampdoria, ma anche un po' del Genoa, oltre che di tutto quello che volete. Ragazzi, 800 24 00 24, numero verde. Ciao Bardo, ti voglio bene. Tutti convocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. E dunque, ecco che torniamo. Mi sembra che, insomma, argomenti del giorno non manchino in questo venerdì pomeriggio in cui stiamo aspettando, domenica sera ovviamente, il derby con Eder molto probabilmente in campo, perché leggo ora ufficiale l'acquisto dalla Sampdoria, l'attaccante ha firmato un contratto fino al giugno 2020, quindi contratto firmato ed era a disposizione di Mancini nel derby di Milano di domenica sera. Ma soprattutto grandissima preoccupazione sull'altro fronte dei tifosi della Sampdoria, che si sono visti un po' smontare una squadra che è già quart'ultima in classifica, ed era Regina a Napoli, Zukanovic alla Roma, Soriano che si promette all'Inter forse a giugno, ma ancora non si sa. Quindi questo è uno degli argomenti, con Ferrero ovviamente sul banco. Io ti aggiungo Mustafi, Obiang, Okaka, Gastaldello e Gabbiadini, che sono i cinque pezzi pregiati che Ferrero ha venduto nelle tre precedenti sessioni di mercato. Con i 20 milioni che ha fatto in queste 24 ore, fai conto che in quattro sessioni di mercato Ferrero si è autofinanziato per una cinquantina di milioni di euro. Morale? No, morale probabilmente i tanti che hanno scritto in questi mesi, anche analizzando il bilancio della Sampdoria, ponendo qualche dubbio sulle effettive capacità economiche di Ferrero di supportare da solo la, sì, Sampdoria, forse tutti i torti non avevano. C'è una cosa che non mi torna però, e si chiama Vincenzo Montella. Perché si è ficcato in questo pasticcio? Perché credo lo scopriremo a giugno. No, ma diciamoci la verità. Allora, cosa hai pensato tu quando Montella è andato alla Sampdoria? Che avrebbe potuto serenamente attendere qualcosa di diverso per l'estate. Certo, e perché non ha aspettato? Perché voleva liberarsi dai Della Valle. A Genova i Della Valle lo mandavano a prezzo di saldo quasi gratis, altrimenti avrebbe avuto il problema della famosa clausola da 5 milioni di euro. Sì. E i Della Valle, insomma, hanno un modo abbastanza rigido di interpretare queste clausole di contratto. Quindi uno immagina questa cosa, immagina anche che Montella ritenga di poter fare qualche mese comunque sereno alla Samp, che è una squadra che ha tutto per salvarsi, sì, ma tranquillamente non ha firmato per 6 mesi, eh? E poi andare via. Sì, però io non credo che la Sampdoria sia una realtà in grado eventualmente di trattenere un allenatore semplicemente perché esiste un contratto. Il problema secondo me è che, dati alla mano, oggi Montella è stato in panchina praticamente lo stesso numero di partite di Zenga e ha meno della metà della, certo, media punti di Zenga, certo. Quindi qualche domanda va fatta anche per quello che è successo fin qui, non solo per quello che succederà da domani con la Samp, che evidentemente non si rinforza. Sai perfettamente che l'esonero di Zenga è stato un esonero mazzariano, no? È stato un esonero decretato più che altro l'opinione pubblica, che non vedeva Zenga con grande favore, eccetera eccetera. Però la verità è che io dietro la sarò dietrologo per l'appunto, però dietro l'accettazione di Montella vedevo un possibile cambio di proprietà della Sampdoria. Cioè qualcun altro si è fatto molte volte il nome di Volpi, sì, ma credo però non sia il tema che arriva lì e dice va bene, adesso stiamo cambiando società, vieni qui, ti metteremo a disposizione comunque una squadra competitiva. E Montella ha detto sì, perché io non credo che tanto più che era uno dei candidati alla successione di Garcia alla Roma, che era cosa imminente, no? Non credo che Montella si sarebbe ficcato volentieri in questo ginepraio. Sull'altra sponda invece, Francesco Baccini, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Sono sordo. C'ho un'otite tremenda, però passerà. Sì, passerà. Passeranno anche i guai del Genoa. Ma un po' sono passati, dai. 3 partite, 7 punti. Ora. Sì. Potevamo anche vincere a Verona, però il Verona era l'ultima spiaggia, quindi ha fatto un secondo tempo all'arrembaggio. Chiaramente, secondo me, Genoa ha preso un po' sotto gamba la partita, pensando di trovare un avversario più arrendevole. Dimmi due parole sulla disperazione dei cugini. Non senti o non vuoi sentire, dimmi due parole sulla disperazione dei cugini. Che stanno perdendo, sì, che stanno perdendo un giocatore dopo l'altro e sono quarto ultimo in classifica. Ma mi sembra che la Sampdoria si è messa peggio di noi da quel punto di vista. Perché bene o male il Genoa, sì, chiaro, sono andati via dei giocatori come Iago Falche, come Bertolacci, Kutka, però abbiamo uno che si chiama Cerci nuovo, abbiamo questo Suso che mi sembra un giocatore interessante, abbiamo tenuto Perotti che per adesso è ancora lì. Adesso. E domenica potrebbe scendere in campo. Abbiamo trovato un signore che si chiama Pavoletti, che se non chiamano in nazionale Pavoletti, chi ci deve andare? Quindi abbiamo una squadra, tra l'altro anche giovane, chiaramente con dei giocatori poi di esperienza come Burdisso, che avercene di Burdisti. Sì, questo è indubbio. Senti Francesco, io mi sono fatto promotore di una campagna che nei giorni scorsi ha preso quota, perché quando Gasperini, dopo la partita col Palermo, fece quelle uscite, mi schierai apertamente da sua parte e dissi: vorrei una maglietta con scritto "io sto con Gasperini". Mi è arrivata da un ascoltatore e queste magliette sembra stiano furoreggiando in una parte della Genova rossoblu. Tu la indosseresti? Devo dire che ho sentito non bene tutto. Sì. Purtroppo l'otite si fa sentire. Me la puoi ripetere un attimo? No, ti dicevo sulla questione di Gasperini. sulla questione di Gasperini. A me è arrivata una maglietta su una mia frase. Io sto con Gasperini dopo quelle parole che disse dopo la partita col Palermo, con i nomi ma e i cognomi. Ma dopo quelle parole scrissi, se io fossi il presidente del Genoa faccio un contratto a Gasperini a vita. Quindi. Bravissimo, bravissimo. Io bravissimo. Sono un gasperiniano convinto. Se fossi il presidente del Genoa ci faccio un contratto per 50 anni. Sì. Perché Gasperini, oltre ad essere un grande allenatore, è un insegnante di calcio. E soprattutto riesce a motivare dei ragazzi quasi sempre giovani e a fargli almeno imparare tre ruoli, perché uno che gioca con Gasperini non gioca in un ruolo solo, gioca almeno in tre ruoli, quindi a volte gli stessi giocatori sono stupiti loro di trovarsi a giocare anche in altri ruoli. Penso a Criscito, che era nato come un terzino, un marcatore, è diventato un fluidificante. Certo. È un grande allenatore ed è una persona per bene, di grande coraggio, perché quello che ha fatto, secondo me, merita di essere sottolineato anche dal punto di vista del coraggio, no, Giovanni? Ma guarda, io credo che i tifosi del Genoa hanno risposto in massa poi a questa cosa, perché allora io sono un genoano, nessuno è più genoano di un altro. così come nessuno è più interista di un altro, cioè queste cose di arrogarsi il fatto di essere più tifoso di un altro, di una squadra. Certo. Io credo che il pubblico debba imparare a fare il pubblico. Sono d'accordo con te. L'allenatore l'allenatore, i calciatori i calciatori. È uno spettacolo. È come se io salgo sul palco e il pubblico mi spiega come devo cantare. Certamente. E poi tu sai benissimo che dietro al fatto di essere più tifosi di un altro c'è anche una questione di affari, e questo lo diciamo tutte le volte. Certo, che poi dietro ci sono sempre altre cose. Poi è tutto meraviglioso, vediamo come finisce a giugno. Vediamo se davvero Preziosi fa quel contratto da 50 anni o anche meno a Gasperini. Ma guarda, io fossi il presidente me ne fregherei altamente, perché poi alla fine... Sì, però non è facile, lo sai anche tu, ma non a Genova. Non è facile ovunque. La pressione di una parte della tifoseria, ecco, chiaramente si fa sentire, però sono sempre una minoranza rispetto alla quasi totalità dei genuani. Francesco, un'ultima cosa: che piani hai quando ti passa l'otite professionale? Che piani hai quando ti passa l'otite professionale? Ho dei piani molto interessanti che scoprirete presto, perché sto preparando un progettino con un mio collega pazzo, quindi e noi ci divertiamo così. Quindi stiamo ti aspettiamo. Aspettiamo tue notizie, tue convocazioni. Sarà un progetto che si farà sentire. Grazie Francesco. Grazie abbraccio. A voi. Un abbraccio a Francesco Vaccini. Senti, vuoi parlare con Pietro della provincia di Milano e Roberto da Fermo all'800 24 00 24 numero verde prima, o vuoi sentire prima cosa ha detto Spalletti? No, facciamo prima Pietro. Prima Pietro e poi prima Spalletti. Pietro. Precedenza Pietro. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo sapere se il Mister B aveva i soldi suoi o se aveva i soldi di Berlusconi. Mm. Guarda, se lo sapessimo andremmo tutti della finanza. Abbiamo letto tutti, però adesso è un anno che sono in ballo, io non lo so, dico solo che se uno deve riportarsi dietro mezzo miliardo che ha per ipotesi nero all'estero, se sceglie di farlo comprando metà di un club di calcio come il Milan è un pazzo. Cioè, perché non esiste una cosa mediaticamente più esposta. Poi è chiaro, Giovanni. Può capitare qualsiasi cosa. Poi le illazioni sono mille, le prove non ci sono, lo prendiamo al momento come un affare, però le parole che ha detto Giovanni Capuano sono sacrosante, secondo me. Cioè, non c'è nulla di più esposto. Fai prima a presentarti alla frontiera con le valigie. Con le valigie. Forse rischi anche di meno. Roberto da Fermo. Eccomi qui. Ecco, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Ecco, volevo fare un paio di considerazioni sull'Inter. Premetto che sono un tifoso della Juventus e volevo fare queste considerazioni. Prima di tutto, non capisco per quale motivo abbia intenzione di acquistare Eder, non so poi se l'abbiano già fatto. Già fatto ufficiale di Eder, ha firmato fino al 2020, ha dichiarato dopo tanti sacrifici finalmente sono in una grande squadra. Beh, il discorso che fanno un po' tutti quanti, anche perché poi l'Inter credo che non abbia bisogno di un attaccante, ma più che altro di un regista, qualcuno che faccia un po' di gioco, ecco, perché credo che non abbia bisogno di punte. E un altro discorso è questo qui. Come mai tutti quanti i giocatori che sembrano che siano dei fuoriclasse poi quando vanno a giocare con l'Inter non riescono a rendere come dovrebbero? Non tutti. non tutti, no, il, certo, discorso starebbe in piedi se l'Inter non fosse terza, esatto, però non è tutto da buttare via di questa prima metà del campionato dell'Inter, anche se le ultime giornate sono quelle che abbiamo visto, con i risultati in calo, con tutto quello che è successo. Però ha ragione ogni tanto Mancini dicendo che si esagera, perché oggi l'Inter è terza in classifica. Ma infatti, cioè, l'Inter non deve cadere nello psicodramma e buttare via quanto di buono sta facendo, perché è la principale candidata per arrivare terza, secondo me. L'idea che potesse essere competitiva per lo scudetto è stata un'illusione ottica creata dalla partenza d'handicap della Juve, quale molti hanno del creduto. Napoli, ma forse anche Mancini prima di Natale qualcosina si era lasciato sfuggire in un paio di interviste. Però svanita quell'illusione ottica, l'Inter è terza. Cioè, noi oggi abbiamo parlato del Milan, la cui proprietà ieri ha detto quest'anno se arriviamo in Europa League è il massimo, e il Milan partiva per arrivare terzo esattamente come l'Inter. Una delle voci, la Roma, una delle voci, sì, della però, proprietà, insomma, una voce vicina, sappiamo molto che è vicina un coro alla proprietà, sì. La Roma partiva per arrivare, se possibile, non terza ma seconda o prima. Allora, prima di fare un processo generale all'Inter, secondo me bisognerebbe anche tener conto di questa cosa qui. Poi sul regista ha ragione, però serve un attaccante. Secondo me sono successe due cose. La prima è che il regista a gennaio evidentemente non sono riusciti a prenderlo, cioè non è facile, anche Banega che bloccano per giugno, comunque a gennaio non era un'operazione fattibile. La seconda è che nelle ultime settimane l'Inter ha perso punti in casa contro Carpi, Sassuolo, e fuori casa a Bergamo, sbagliando anche tanti gol, oltre che rischiando di prenderli. E Mancini questa cosa qui l'ha interpretata come un segnale negativo. Certamente, e quindi è andato a prendere un attaccante. E secondo me non ha torto, perché parliamoci chiaro, Jovetic ha fin qui deluso. Ma che in magari maniera, farà giocare anche meglio Icardi. In maniera clamorosa, magari farà giocare anche meglio Icardi, che avrà una spalla ideale. Magari Mancini ha altre idee, perché ha capito che così non va, che così non può funzionare. Palacio chiaramente mostra la corda e potrebbe anche andare via pure negli ultimi giorni di questa sessione di mercato, quindi un attaccante all'Inter serviva. Non, certamente con un regista sarebbe stato meglio, però intanto un attaccante in grandi condizioni sarebbe portato a casa e serviva. Prima di Luigi Massimiliano, invece, Spalletti, che ha parlato innanzitutto del Frosinone, poi ha riacceso la polemica con Zeman. Cominciamo a sentire Spalletti. Io voglio aspettarmi qualcosa di meglio anche di quello che ho visto con la Juventus, non solo col Verona. Abbiamo fatto dei passi in avanti, abbiamo corretto alcune cose, dobbiamo metterci ancora qualcosa in più in altre, e raggiungere quell'equilibrio e poi essere bravi a saper interpretare quelli che sono i concetti di gioco, ecco, quelle che sono le situazioni che effettivamente possono farci riappropriare delle nostre qualità. Rabbrividisco al fatto che ci ho parlato due minuti prima che lui intervenisse e mi ha detto tutt'altra cosa, chiedendogli anche, siccome era a telefono Antonino Tempestilli, siccome era qui a Roma lui, era a telefono Antonino Tempestilli, Zdenko, me lo passi perché siamo amici, abbiamo sempre parlato. Dico, da buon osservatore della Roma, c'hai qualche cosa da consigliarmi? No, lì nessuno rispetta le regole, così. Poi dopo mi sento dire questa cosa, me la poteva dire, per cui rabbrividisco perché me la poteva dire lì. Capito, Spalletti. Ma gliel'aveva detto. Cioè, lì nessuno rispetta le regole. E quindi neanche lui. No, e quindi secondo me Spalletti ha capito di avere in mano una matassa un po' più complicata. Tra l'altro oggi ha detto un po' di cose. Ha detto anche che i due preparatori, quelli di Pallotta, sono bravi, organizzati, ma il piano di lavoro lo decide lui. Cosa che a Garcia evidentemente non era consentita, non era permessa. Ha detto che Zukanovic è bravo, lo conosceva. Sembra che ce l'abbiamo, no? Questo su Zukanovic. Però poi ha detto una cosina che, insomma, se io fossi un tifoso della Roma mi allarmerebbe un po'. Esatto. Zukanovic, Spalletti su Zukanovic. Non ce l'abbiamo. Vabbè, comunque, ha detto anche viene per fare risultati subito. Certo, se dovesse fare un mercato per vincere un titolo in estate, i discorsi sarebbero diversi. E quindi ti viene anche il dubbio che gli piaccia, ma in fondo non sposti più di tanto il destino della Roma. Dicono anche che la Roma, qualcuno dice, che sarebbe impegnata in Inghilterra per cercare di prendere Cahill dal Chelsea, ci credo, fino a un certo punto. Luigi, Modena, buongiorno. Sì, salve, buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo chiedere due cose velocissime. La prima è in prospettiva il cambio che è stato fatto in estate fra Torres e Cerci. Voi cosa ne pensate adesso? Torres all'Atletico Madrid sta giocando bene. No, Cerci mica tanto, ha rotto con Simeone ed è in uscita dall'Atletico Madrid. Sta risulta. Facendo esattamente come Cerci. Ah, allora guardi, sono fonti sbagliate. E in più volevo chiedere con che ottica un tifoso, io sono milanista, deve affrontare la partita di domenica, quando contro l'Empoli e contro la Fiorentina il Milan ha fatto un 30%, 38% di possesso palla, con un gioco veramente, cioè una cosa vergognosa, una cosa scandalosa. Anche se ha vinto contro la Fiorentina, ma ha giocato per me una partita bruttissima. Beh, bruttissima, ne ho viste di peggio di quest'anno del Milan rispetto alla partita con la Fiorentina. Certamente sarà una partita in cui grande pressione sarà sull'Inter, che, la quale mi sembra in condizioni di forma inferiori rispetto all'Empoli. Sì, e poi il tema di chi farà la partita è interessante, perché ad esempio mercoledì sera a Torino, dati possesso palla e tutte quelle statistiche lì, l'Inter ha fatto la partita, poi non se ne è avuta la percezione perché Allegri l'ha impostata bene, ha lasciato la palla all'Inter. Però è una squadra che va molto in orizzontale, ma Giovanni, molto più pericolosa. Però ad esempio, io credo che a Mihajlovic non dispiacerebbe un approccio dell'Inter come quello di mercoledì sera. Cioè, gli lascia la palla, tenetela voi. Consentirebbe al Milan di fare la partita che ha fatto con la Fiorentina. Sì, sì, sono d'accordo. Non so se Mancini gli lascerà questo vantaggio. No, soprattutto se, come ha fatto l'Inter a Torino, grande possesso palla, ma è una squadra che non ha profondità, cioè tende a giocare la palla molto in orizzontale e fa fatica a verticalizzare. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Grazie per la convocazione. Grazie a lei. Dica. Guardi, dunque, io chiamavo per fare, io sono juventino e sono un convinto allegriano da sempre praticamente, ma chiamavo per fare una considerazione sull'Inter e una velocissima sulla stampa. L'Inter, velocemente, io... ho sentito anche un'intervista qualche giorno fa in cui si parlava che i giocatori sono depressi, hanno problemi perché i risultati non vengono. Ma io vorrei dire, l'Inter comunque è terza e non credo che la squadra dell'Inter, in questo, per come è stata progettata, potesse ambire a qualcosa in più del terzo posto. Considerate che negli ultimi 5-6 anni, se non sbaglio, è arrivata sempre a 25, 30, 40 punti alla fila. No, quindi quello che stiamo dicendo noi... il terzo posto dell'Inter, poi io... Attenzione, perché da quelle parti c'è anche, per la cronaca, da quelle parti c'è anche la Fiorentina, che secondo me sta facendo un mercato intelligente. Adesso vediamo se riesce a prendere questo ragazzo argentino Mammana per diversi soldi da River Plate, una decina di milioni, però mi sembra una eccellente idea in prospettiva, se è bravo come dicono. Attenzione che da quelle parti c'è anche la Fiorentina. Su questo punto però siamo tutti d'accordo e l'abbiamo detto finora. Poi l'altro qual era? L'altro punto era sulla Sampdoria, che ha venduto, ma anche qui poi uno bisogna che le cose le vada a leggere e si ricordi. Cioè, tutti sanno che Ferrero effettivamente, da un punto di vista proprio economico, la Sampdoria l'ha comprata, tra virgolette, per un tozzo di pane, e l'ha comprata con probabilmente con l'aiuto ancora dell'ex presidente, che non voleva lasciarla del tutto. Quindi è chiaro che economicamente Ferrero non è in grado di gestire una società di quel tipo. Beh, ma e questa non è una bella notizia, per i tifosi. No, ma è una cosa che vuol dire ci sta, è una cosa. Pare proprio qualche tempo fa l'ho fatto riportato sul giornale la percentuale effettiva, qual era il capitale sociale che aveva Ferrero nella Sampdoria, e mi pare di aver letto che fosse addirittura la figlia il principale azionista della Sampdoria. Comunque quindi... Garrone ci hanno messo 65 milioni di euro nella Samp da quando l'hanno venduta per ripianare i debiti che c'erano. Però facendo un discorso strettamente sportivo, più che contabile, a me sembra molto pericoloso in questo momento e in quella posizione di classifica operare sul mercato in questi termini. Sì, pericoloso, credo che la scommessa, a parte che i numeri dicono che lui di quei soldi lì ha bisogno e quindi alla fine c'è una ragione superiore, credo che la scommessa sia che nella Serie A c'è una squadra già retrocessa purtroppo, che è il Verona. Ce n'è un'altra che è in terapia intensiva, in coma, come il Frosinone, sì, la scommessa è che possano bastare 5 punti di vantaggio sul Carpi, uh-huh, che insomma sta facendo bene, ma sono sempre 5 punti su una squadra che sulla carta è inferiore. Che è ancora viva. Jacopo Lo Monaco da Eurosport, ciao Jacopo. Buongiorno. Buongiorno, sta raccontando le ultime battute ormai degli Australian Open. Abbiamo una finale maschile. Sì, sempre la stessa, la quarta volta negli ultimi 6 anni, Novak Djokovic contro Andy Murray, però sono il numero uno e il numero due al mondo. Sì, con Djokovic che ha battuto Roger Federer, cui, davanti al quale ci alziamo in piedi pure di fronte a una sconfitta. Murray ha avuto bisogno di 5 set per scavalcare l'ostacolo Raonic. Esatto, e ha 24 ore in meno per recuperare rispetto a Djokovic, che è un po' un'anomalia dell'Australian Open, che spero che in futuro venga cancellata, perché è l'unico torneo dello Slam nel quale le due semifinali si disputano in giornate diverse. Mm-hmm. Fisicamente però Murray è una roccia, quindi non ho dubbi che recuperi almeno al 95% in vista di domenica. Sì. Rimane il fatto che con Djokovic in Australia ha sempre perso, perché sono 4 sconfitte in 4 partite, appunto 3 finali e 1 semifinale, hanno un gioco molto simile, però Djokovic sembra avere qualcosa in più dalla parte del dritto. Se si equivalgono in risposta sul rovescio e tutto sommato anche sul servizio, dalla parte del dritto è un po' più forte Djokovic, e indubbiamente Djokovic ha anche la sicurezza di una stagione eccezionale, quella del 2015. Cioè, si gioca alle 20:30 di sabato la finale femminile, correggimi se sbaglio, alla stessa ora di domenica la finale maschile. Sabato cosa prevedi? Allora, alle 9:30 italiane del mattino. 9:30 italiane del mattino, certo. Che sono le 19:30 a Melbourne. Sì. Sabato prevedo... Ma entrambe le finali non sono così scontate, né quella di Serena Williams né quella appunto di Djokovic, perché sono in grado sia Kerber che Murray di allungare la partita, e se diventa molto fisica chi lo sa cosa può accadere. Il problema è appunto riuscire ad allungarla al punto tale che diventi poi un match di fisico e non più di tecnica e di tattica, perché una costante anche di Djokovic in questo torneo è stato una partenza eccezionale e poi un calo rispetto alla partenza eccezionale, solo che la partenza gli dà 2 set di vantaggio e poi va a riprendere. Grazie Jacopo, bocca al lupo per questi grazie due racconti delle prime due finali del Grande Slam. Noi ci troviamo domenica, Giovanni. Domenica 17:19. Dalle 17:19. Ora italiana. Saremo ora di Melbourne. Avremo tutte le risposte su Juve-Napoli, perché avranno giocato tutte e due. Avremo grandi ospiti per preparare il derby della sera. Ha giocato anche la Fiorentina e alla sera aspettiamo insieme il derby. Milan-Inter. Funziona così. Grazie a Giovanni Capuano, Giorgio De Luca il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Ciao a tutti. Saluti.